Vangelo di Giovanni, capitolo undicesimo. Or v'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta sua sorella. Maria era quella che unse il Signore d'olio d'orifero e gli asciugò i piedi coi suoi capelli, e Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è ammalato». Gesù, udito ciò, disse: «Questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo d'essa il figliolo di Dio sia glorificato». Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come dunque ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dov'era. Poi dopo disse ai discepoli: «Torniamo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Maestro, i giudei cercavano ora di lapidarti, e tu vuoi tornare là?» Gesù rispose: «Non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui». Così parlò e poi disse loro: «Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo». Perciò i discepoli gli dissero: «Signore, se gli dorme sarà salvo». Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi pensarono che avesse parlato del dormire, del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate. Ma ora andiamo a lui». Allora Toma, detto Didimo, disse ai suoi condiscepoli: «Andiamo anche noi per morire con lui». Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania non distava da Gerusalemme che circa 15 stadi, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come dunque Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, e anche adesso so che tutto quel che chiederai a Dio, Dio te lo darà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Marta gli disse: «Lo so che risusciterà nella resurrezione, nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morrà mai. Credi tu questo?» Ella gli disse: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figliuolo di Dio, che doveva venire nel mondo». E detto questo se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: «Il maestro è qui e ti chiama». Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e venne a lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Maria l'aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei la consolavano, videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe veduto, gli si gettò ai piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». E quando Gesù la vide piangere e vide i giudei che erano venuti con lei piangere, anch'essi fremé nello spirito, si conturbò e disse: «Dove l'avete posto?» Essi gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù pianse. Onde i giudei dicevano: «Guarda come l'amava». Ma alcuni di loro dicevano: «Non poteva colui che ha aperto gli occhi al cieco fare anche che questi non morisse?» Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Era una grotta, e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: «Togliete via la pietra». Marta, la sorella del morto, gli disse: «Signore, egli puzza già perché siamo al 4º giorno». Gesù le disse, «Non t'ho io detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra, e Gesù, alzati gli occhi in alto, disse, «Padre, ti ringrazio che m'hai esaudito. Io ben sapevo che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu m'hai mandato». E detto questo gridò con gran voce, «Lazzaro, vieni fuori!» E il morto uscì, avendo i piedi e le mani legati da fasce, e il viso coperto da un asciugatoio. Gesù disse loro, «Scioglietelo e lasciatelo andare!» Perciò molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano veduto le cose fatte da Gesù, credettero in lui, ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. I capi sacerdoti, quindi, e i farisei radunarono il sinedrio e dicevano, «Che facciamo? Perché quest'uomo fa molti miracoli. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui, e i romani verranno e ci distruggeranno e città e nazione». Ed uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote di quell'anno, disse loro, «Voi non capite nulla, e non riflettete come vi torni conto che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione». Or egli non disse questo di suo, ma siccome era sommo sacerdote di quell'anno, profetò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per accogliere in uno i figli di Dio dispersi. Da quel giorno dunque deliberarono di farlo morire. Gesù quindi non andava più apertamente fra i giudei, ma si ritirò di là nella contrada vicina al deserto, in una città detta Efraim, e qui vi si trattenne coi suoi discepoli. Or la Pasqua dei giudei era vicina, e molti di quella contrada salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Cercavano dunque Gesù, e stando nel tempio dicevano tra loro, «Che ve ne pare, che non abbia a venire alla festa?» Ora i capi sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che se alcuno sapesse dove egli era, ne facesse denunzia, perché potessero pigliarlo.